4. Le libertà inglesi. Solo gli inglesi mantennero i valori del sistema feudale. Nella loro isola protetta dal mare e isolata dall'Europa, i baroni inglesi resistettero con successo ai re. Re Enrico II attaccò per primo il sistema feudale in Inghilterra in modo così sensibile che quasi lo distrusse. Attaccò la sua giustizia. La giustizia è un problema morale che gli uomini non hanno quasi mai iniziato a risolvere. Nasce dalla necessità di agire in conformità ai fatti. Gli uomini hanno sempre saputo che esistono fatti nella natura delle cose ai quali gli esseri umani devono conformarsi. C'è la gravitazione, meglio non scendere da un precipizio. C'è la fratellanza umana, meglio amare il prossimo come se stessi. Così, in tutti i tempi si è dubitato che un uomo sia in grado di giudicare un altro. La giustizia è sempre sentita come uno standard non creato dagli uomini. I pagani obbediscono ai capricci degli dèi, come spiegato dai loro sacerdoti. Gli ateniesi democratici credevano che la giustizia fosse la volontà della maggioranza, secondo la teoria che 90 uomini hanno ragione e 10 hanno torto. In base a questa teoria, uccidevano i loro uomini intelligenti e onesti. Anche Ponzio Pilato obbediva alla maggioranza, anche se in modo più scettico. La legge romana proteggeva i cittadini romani, non i sudditi romani. Così, quando un capo della polizia disse incautamente ai suoi uomini di torturare Paolo di Tarso, al prigioniero bastò dire: "Sono un cittadino romano", per far sì che il capo stesso si scusasse abiettamente. "Anch'io sono un cittadino", disse il capo, "come un fratello di fratellanza, ma dovete vantarsi di essere ricco. Con un grande prezzo ho ottenuto questa libertà." Il suo prigioniero era ancora freddamente superiore. Paolo disse: "Io sono nato libero." Per libertà intendeva che nessun uomo del governo romano poteva torturarli o ucciderli solo perché ne aveva un'idea. La Gestapo era solo per i sudditi romani. Un cittadino, Paolo di Tarso, poteva appellarsi alla legge romana che lo giustiziò perché non adorava gli dèi pagani. Gli europei feudali lasciavano la giustizia agli elementi, al fuoco e all'acqua. Legare un accusato e gettarlo in acque profonde, se annega è innocente, se non annega è colpevole. Nato per essere impiccato, non sarai mai annegato. Questo era il processo per acqua. Il processo per fuoco funzionava con lo stesso principio. Per i cavalieri c'era la prova del combattimento. Dio dà il successo a chi ha ragione. Questo è vero, come sa ogni scienziato e ogni uomo che abbia mai regolato un carburatore, ma gli europei feudali, come i greci pagani, immaginavano che Dio controllasse personalmente le lance e le spade, come oggi potrebbero immaginare che la mano invisibile di Dio regoli il carburatore. E quelle prove di combattimento portarono gli scettici a dire: "Might makes right." Re Enrico II approfittò di questo scetticismo. Suo nonno aveva inventato i tribunali di circuito. Re Enrico li istituì e inventò le giurie. Pubblicò nel suo regno la notizia che chiunque avesse richiesto la giustizia del re sarebbe stato processato davanti a un giudice e il suo caso sarebbe stato deciso da 12 uomini della sua stessa classe sociale, i suoi pari. Innocente o colpevole, preferiresti affrontare un'ordalia feudale o un giudice o una giuria? Ecco. Esattamente. La giustizia di Re Enrico era così popolare che gradualmente costruì un'autorità più forte di quella di qualsiasi barone. Alla sua morte, il sistema feudale era già in via di estinzione. Riccardo Cuor di Leone era il suo erede, ma Riccardo partì per le crociate. Suo fratello Giovanni, sebbene un po' folle, era il prossimo in linea di sangue reale. Tassò brutalmente i baroni, si impadronì delle loro terre, dei loro castelli, fece sposare le loro figlie con dei popolani. Naturalmente il re imponeva i matrimoni, ma questa atrocità avrebbe distrutto le loro classi, quindi i baroni, indignati, protestarono. Gli ufficiali del re sequestrarono le loro mogli e i loro figli e li fecero morire di fame nelle prigioni. I baroni si ribellarono armati. A Runnymede i loro robusti vassalli sconfissero quelli di Re Giovanni. I baroni catturarono Re Giovanni e lo spaventarono facendogli firmare un accordo per la restituzione dei loro possedimenti e per il rispetto delle usanze feudali. Questo documento è la Magna Carta, abolisce i giudici e le giurie, ripristina il processo per ordalia, cioè la prova fisica di avere ragione con l'acqua o con il fuoco, e vincola il re a rispettare e preservare i diritti feudali di tutte le classi. La Magna Carta è la carta della libertà inglese. È la missione da parte del re che anche i reali sono vincolati da obblighi feudali verso i baroni, quindi implicitamente garantisce a ogni inglese i suoi diritti di classe. In Francia, Ungheria e nella Spagna cattolica i re firmarono la Magna Carta, ma poi la ripudiarono. Nessun re inglese fu mai in grado di abbattere i baroni inglesi e di abolire la Magna Carta inglese, invece. Il principio politico dell'Inghilterra di oggi è il principio feudale di un ordine sociale di classi in cui ogni individuo ha i diritti e i doveri del suo status sociale. Le classi inferiori inglesi mantengono questo sistema di classi con un'ostinata tenacia. Un duca potrebbe cercare di incontrare un maggiordomo, un tassista, un contadino, su una base di uguaglianza umana, ma nessuno di loro glielo permetterebbe. Le classi dirigenti, che derivano il loro ideale di gentiluomo direttamente dai saraceni e la loro responsabilità sociale dal sistema feudale, mantengono sempre il riconoscimento feudale dell'uguaglianza umana in senso spirituale. Riconoscono il loro dovere nei confronti delle classi inferiori e il diritto di ogni individuo a determinati privilegi o libertà. In Inghilterra, per così dire, nessuno può obbligare un apprendista a badare al bambino. Gli inglesi non saranno mai schiavi. Non esiste una Costituzione britannica nel senso americano del termine. Questa è un'altra delle confusioni tra la lingua inglese e quella americana. Dopo che i rivoluzionari americani hanno inventato le Costituzioni e i rivoluzionari francesi hanno copiato l'idea, gli inglesi hanno iniziato a parlare di Costituzione inglese. Con questa parola intendono ciò che un americano intende quando dice di un altro uomo ha una costituzione forte, intendono uno stato generale del governo britannico. Il loro governo si è formato gradualmente nel corso dei secoli attraverso l'accumulo di costumi, punti di vista, leggi e guerre civili. L'unica costituzione scritta dell'Inghilterra fu quella di Cromwell, ex birraio. Guidò la ribellione puritana contro gli Stuart e si fece dittatore dell'Inghilterra. I suoi ufficiali scrissero lo strumento di governo. Esso conferì l'autorità suprema a vita al Lord Protettore, naturalmente Cromwell stesso. Riconosceva l'antica assemblea feudale dei baroni per parlare profondamente e guardare il re indossare la sua corona. Cromwell visse solo 6 anni come Lord Protettore. Il suo strumento morì con lui e gli inglesi riportarono gli Stuart di diritto divino. Le guerre civili si sono protratte per secoli, molti rifugiati fuggirono da esse in America. 88 anni prima della dichiarazione di indipendenza americana, gli inglesi abolirono il diritto divino in Inghilterra e trasferirono gran parte dell'autorità del re all'Assemblea dei Baroni, la Camera dei Lord. Poveri di terra, i lord non potevano pagare i costi della corte reale e i ricchi popolani si rifiutavano di farlo perché non avevano alcun controllo sulle spese del re. Naturalmente non si aspettavano alcuna uguaglianza con i nobili, ma si ostinavano a non voler pagare le tasse a meno che non venisse dato loro un modo per contenerle. Così furono ammessi in Parlamento come classe inferiore, una Camera dei Comuni o Commons, e fu loro permesso di controllare la tesoreria reale. Questa concessione fu più importante di quanto i lords si rendessero sprezzantemente conto all'epoca. I loro figli più realisti si sono riversati nella Camera dei Comuni. Questa Camera ha lentamente acquisito importanza fino a poter porre domande ai ministri e, andando in campagna, in un'elezione speciale, ottenendo il sostegno popolare, la Camera dei Comuni può superare una decisione del gabinetto. Campagna si intende elettorale. Purtroppo molti americani non capiscono il popolo inglese, né l'impero britannico e nemmeno gli europei continentali. Gli americani, i cui antenati hanno abbandonato il feudalesimo nel 1776, oggi guardano l'impero britannico in Africa e in Asia e si chiedono come possano gli inglesi tenere milioni di uomini in soggezione senza volerlo e continuare a dire di essere sinonimo di libertà. Gli europei continentali, i cui antenati hanno abbandonato i valori umani del feudalesimo per tornare a un'antica tirannia, sogghignano e dicono che gli inglesi sono una nazione di bottegai, ipocriti e doppiogiochisti. Nessuno dei due punti di vista è valido. Gli inglesi difendono i veri valori del feudalesimo. Il governo britannico garantisce sempre che ogni individuo nella sua classe abbia diritti umani, dipendenti e soggetti all'intero ordine sociale. Questo ordine sociale e questa concessione di diritti gli inglesi la danno a ogni inglese e a ogni suddito britannico. Un selvaggio nudo ha i suoi diritti umani nella sua classe, sotto la giustizia britannica. L'amministratore britannico solitario, pieno di febbre e chinino, che fa caparbiamente il suo dovere in topi estivali da zanzara e governa e si prende cura del selvaggio in Africa, non rivendica altro per sé che i propri diritti umani nella sua classe. Non considera il selvaggio come suo pari sociale e non si considera pari sociale di un conte. Al cospetto di Dio e della giustizia britannica, tutti gli uomini sono uguali. In questo mondo, invece, ogni uomo ha il suo posto. Come disse cortesemente il primo ex presidente degli Stati Uniti a un ospite inglese nella sua casa di Mount Vernon: Sì, signor Bernard, considero il vostro paese la culla dei principi liberi, non la loro poltrona. Gli inglesi vanno in giro liberamente, ma tra alte mura, e l'errore del loro governo è stato quello di supporre che dopo che una parte dei suoi sudditi aveva attraversato il mare per vivere in una comune, avrebbero permesso ai loro amici in patria di costruire quelle mura intorno a loro. Questo elemento di libertà, di azione individuale, entro i limiti di classe, che gli inglesi hanno mantenuto dal feudalesimo e che hanno sviluppato e combattuto per secoli di sanguinose guerre civili, mentre tutti gli europei continentali lo abbandonavano, è l'elemento della vita inglese che ha creato l'impero britannico. Il naturale desiderio umano di utilizzare l'energia umana per migliorare le condizioni della vita umana, ebbe un margine di manovra in Inghilterra. Perciò gli inglesi divennero, come dicono gli europei continentali, una nazione di bottegai. La funzione essenziale delle nazioni continentali è quella antica, la guerra. La funzione essenziale dell'Inghilterra è il commercio. Nel XVII e XVIII secolo gli inglesi, con il permesso del re, andarono a fare profitti. Non fu il governo britannico a fondare le colonie, ma la Virginia Company of Gentlemen Adventurers, la Massachusetts Bay Company, la Hudson's Bay Company, le compagnie commerciali. La Compagnia delle Indie Orientali entrò in India, Cecil Rhodes in Sudafrica, tutti commercianti. I re continentali pianificavano gli imperi, inviavano nobili e soldati a impadronirsi delle terre e i contadini a colonizzarle, i loro ministri ne pianificavano e controllavano l'insediamento e la coltivazione. In America del Sud il re di Spagna diede terra gratis e un maiale di 6 mesi a ogni famiglia di coloni, un barile di grano a ogni adulto, una zappa a ogni bambino di più di 6 anni. I re e le regine d'Inghilterra noleggiarono commercianti. E li lasciarono commerciare. L'intera colonia di Raleigh scomparve. Il capitano John Smith ebbe problemi in Virginia. 2/3 dei coloni del Massachusetts morirono durante il primo inverno. Il governo britannico non pianificò alcun impero e non si prese cura dei coloni. Intervenne solo quando le compagnie commerciali dovettero usare la forza per proteggere il loro commercio. Allora la marina britannica tolse l'isola di Manhattan e la valle dell'Hudson agli olandesi e l'esercito britannico tolse il Canada e l'India ai francesi per fermare la concorrenza con il commercio britannico. È questo elemento feudale delle libertà concesse che rende l'impero britannico unico nel suo genere. È l'unico impero mai creato da individui che usano le loro energie per aumentare l'offerta disponibile di beni utili. I governi hanno creato gli altri imperi usando la forza militare in guerra per ampliare l'area di utilizzo della forza. In un mondo di imperi che fanno la guerra e di nazioni che la fanno, gli inglesi usano la guerra solo come necessaria protezione della funzione primaria della Gran Bretagna, che è il commercio. Lo stesso elemento di libertà causa la flessibilità non pianificata alle circostanze, che ha trasformato la piccola mezza isola di Elisabetta in un impero che circonda la terra. Questa mancanza di pianificazione, che obbliga i governanti inglesi a cambiare idea al mutare delle situazioni, è ciò che gli europei continentali chiamano perfidia inglese e gli inglesi chiamano muddling through. Non fraintendetemi, gli inglesi hanno salvato l'unica conoscenza dei diritti umani sulla terra quando ovunque si era persa e l'Inghilterra è stata per secoli la terra delle libertà. Ma una concessione di libertà, per quanto ampia, non è un pieno riconoscimento del fatto della libertà individuale. Da quando gli italiani hanno risvegliato l'Europa. Tutti gli europei parlano di libertà e di libertà e di essere liberi. Le parole in lingue diverse non hanno lo stesso significato. Gli americani si illudono di averlo. Quando il carceriere di Paolo di Tarso disse libertà, intendeva la sicurezza dalla Gestapo. Pochissimi europei hanno mai saputo cosa sia la libertà. Tutti gli altri danno per scontato che l'autorità controlli gli individui. Quando dicono un paese libero, intendono un paese non conquistato da stranieri. In questo senso la Germania è un paese libero in questo momento. Quando parlano di libertà, intendono ciò che un americano intende quando chiede posso prendermi la libertà? Intendono un permesso concesso loro di compiere una certa azione. Quando la mamma dice sì tesoro, mettiti le gomme ai piedi e puoi uscire a giocare. Il bambino, dopo essersi messo le gomme ai piedi, gli stivali, è libero di giocare, cioè ha una libertà, non è libero. Questo significa proprio che non è libero ma soggetto all'autorità della mamma. La madre può concedere questa libertà perché ritiene che ogni bambino abbia il diritto di giocare. Questo non fa alcuna differenza rispetto al fatto che sia responsabile del bambino e che debba frenare i suoi atti, se necessario con la forza, per evitare che il bimbo faccia qualcosa che lei ritiene dannoso. Naturalmente lei controlla il bambino per il suo bene, anche questo non fa differenza, soprattutto se la sua unica preoccupazione è il benessere del bambino gli impedirà di fare tutto ciò che pensa non sia buono per lui. Il fatto stesso che gli conceda una libertà di giocare significa che né lei né il bambino lo considerano libero. Quando lei pensa che non debba giocare, gli dirà no, caro, è ora di andare a letto e lui non sarà libero di giocare. L'autorità che concede una libertà può sempre ritirarla. La libertà non è un permesso concesso da un'autorità, la libertà è un fatto. Che lo si sappia o meno, la libertà è nella natura di ogni persona vivente, come la gravitazione è nella natura di questo pianeta. La vita è energia. La libertà è il controllo individuale dell'energia umana, ciascuno della sua. Non può essere separata dalla vita. La libertà è inalienabile, come non posso trasferire la mia vita a nessun altro, non posso trasferire la mia libertà. E il controllo della mia energia vitale a nessun altro. Il mio esercizio dell'energia di autocontrollo può essere proibito, limitato, impedito con la forza, mettendomi in prigione o in catene. Il mio spirito può essere così debole o posso essere così ignorante dei fatti che cerco di comportarmi come se non controllassi i miei atti. Ma il mio autocontrollo, che è libertà, può essermi tolto solo uccidendomi. Finché vivo, sono padrona di me stessa e responsabile di ciò che faccio. L'ignoranza non è una via di fuga da un fatto. I sassi sono caduti sulle teste umane prima che una mela cadesse su Newton. Non sapere a che velocità si guida non è una fuga. Non mi giustifica in caso di un incidente. Nessuno sfugge al fatto della libertà, se non ha il cervello e il coraggio di affrontarlo e dire. Mi comporto da codarda solo perché sono una codarda. Se agisco come una delinquente, sono una delinquente. Nessuno e niente, se non io stessa, può essere responsabile di ciò che faccio. Non posso strisciare via da sotto dicendo devo farlo, se non lo faccio perderò il lavoro, o dobbiamo farlo, non possiamo permetterci di perdere il contratto, o ho una famiglia da mantenere. O abbiamo una responsabilità nei confronti degli azionisti, o è la linea del partito, il fine giustifica i mezzi. La libertà è inalienabile. Non posso trasferire la mia responsabilità a nessuna o a qualcosa. Questo fatto non viene riconosciuto quando gli individui si sottomettono a un'autorità che concede loro libertà. Implicita in questo plurale è la convinzione che gli individui non sono liberi, che gli uomini e le donne adulti devono essere controllati e accuditi come i bambini e che come i bambini siano naturalmente dipendenti e naturalmente obbedienti a un'autorità che è responsabile dei loro atti e del loro benessere. Questa è la credenza pagana che ha prevalso in generale per 6.000 anni e che prevale ancora sulla maggior parte di questa terra. Gli inglesi l'hanno modificata verso la realtà, per quanto sia possibile modificarla, ma non l'hanno rifiutata. E non pensate che questa distinzione sia poco importante. Ai coloni britannici in America era stata concessa la libertà di parola, la libertà di riunione e altre libertà dalle aggressioni del governo alla loro libertà, molto prima che iniziassero la rivoluzione americana. Queste libertà furono loro concesse perché gli inglesi avevano combattuto ed erano morti per difendere i diritti umani riconosciuti dal sistema feudale. I coloni si infuriarono quando il Parlamento britannico ritirò loro alcune di queste libertà che fino allora non erano state concesse agli inglesi in Inghilterra. Gli inglesi non riuscivano a capire la loro furia. Il governo britannico aveva tutto il diritto di agire come ha fatto. Qualsiasi autorità che può concedere una libertà può ritirarla. La visione inglese prevedeva che ogni individuo nella sua classe avesse determinati doveri e determinati diritti. Gli uomini delle classi inferiori dovevano obbedienza, servizio e rendite alle classi superiori. In cambio, i loro superiori dovevano loro guida, giustizia e protezione. Il signorotto aveva preso la terra comune che i servi e i contadini dei suoi antenati avevano coltivato nel vecchio sistema feudale. Egli deteneva questa terra non come sua proprietà, ma come proprietà di famiglia che gestiva in modo fiduciario per i suoi discendenti. I discendenti degli ex servi della glebe e dei contadini vivevano ancora sulla terra e la lavoravano per conto del signorotto. Aveva ancora la responsabilità feudale nei loro confronti, nominava i loro ecclesiastici, giudicava e puniva i loro crimini, dava loro consigli e ordini paterni o paternalistici e li accontentava nei giorni di festa. Approvava o proibiva i loro matrimoni, collocava i loro figli in posti di lavoro, controllava il loro cottage. In breve, se era un buon signorotto, si prendeva cura di loro. Né lui né loro hanno mai sognato una disparità di classe tra loro, né hanno mai immaginato che uno dei due potesse lasciare la classe in cui era nato. Sul continente, i re erano considerati semidivini. Gli inglesi negavano che un re avesse il diritto divino. Il loro re condivideva l'autorità con il consiglio privato e le due camere del Parlamento. Gli inglesi consideravano la Magna Carta come la concessione reale che impediva al governo britannico di distruggere i diritti feudali dell'uomo. Gli uomini delle classi dirigenti inglesi sentivano sinceramente e sentono tuttora gli obblighi del loro status superiore. Fino a poco tempo fa, le famiglie aristocratiche possedevano la terra d'Inghilterra. L'aristocratico ha ancora i privilegi del suo rango, ereditato o acquistato, compresi i vantaggi dell'istruzione universitaria. La sua educazione, la sua coscienza e le aspettative di tutte le classi di inglesi esigono ancora da lui l'adempimento dei doveri del suo rango. Non può dedicarsi agli affari o all'industria manifatturiera. Sono occupazioni da classe media. Un aristocratico serve l'Inghilterra nel governo, nell'esercito, nella marina o nella chiesa. Il suo dovere è proteggere gli interessi e i diritti degli inglesi, quelli del più umile contadino quanto più dei suoi. Questo è il sistema inglese che ha resistito agli assalti di centinaia di anni e che resiste ancora oggi. È un sistema ammirevole, per secoli è stato l'unica difesa dei diritti umani sulla terra. Mezzo secolo dopo che gli americani iniziarono la rivoluzione che oggi scuote l'intero mondo umano, il presidente degli Stati Uniti, John Quincy Adams, tenne a Washington il discorso ufficiale del giorno dell'indipendenza. Egli descrisse così il sistema britannico. Il popolo britannico, disse, attraverso lunghe epoche di guerre civili, ha estorto ai suoi governanti non riconoscimenti, ma concessioni di diritti. E con questa concessione si sono accontentati e si sono fermati. Ricevevano la loro libertà come una donazione da parte del loro sovrano. Si appellavano per i loro privilegi a un manuale di segni e a un sigillo. Ritenevano il loro titolo alla libertà come il loro titolo alle terre, dato e elargito dalla generosità di un uomo. E nella loro cronologia morale e politica, la Magna Carta di Runnymede era l'inizio della loro civiltà. Invece di risolvere la società civile nei suoi primi elementi alla ricerca dei loro diritti, guardavano solo alla conquista come origine delle loro libertà e rivendicavano i loro diritti se non come donazioni dei loro re. Questa incerta affermazione della libertà non è da addebitare all'intera nazione, c'erano spiriti in grado di ricondurre il governo civile al suo fondamento nella natura morale e fisica dell'uomo. Ma la conquista e la servitù erano talmente mescolate in ogni particella dell'esistenza sociale della nazione inglese che queste erano diventate per loro di vitale importanza. 5. Il terzo tentativo. 1. Americani. Il terzo tentativo è appena iniziato. Oggi vivono uomini cui i nonni ricordavano l'inizio. Iniziò quando gli dèi viventi governavano quasi tutta la terra, come gli dèi viventi governavano l'Egitto e come un figlio del cielo governa oggi i giapponesi. I re semidivini possedevano il Sud America, l'America centrale e la maggior parte del Nord America, compresi i tre quarti dell'area degli attuali Stati Uniti. Il re e il Parlamento britannici governavano circa 2,5 milioni di uomini e donne che vivevano in insediamenti sparsi ai margini del continente, dal Labrador alla Florida spagnola. Queste persone erano di ogni razza, colore e credo. I francesi erano nel nord e nelle Caroline. Gli olandesi avevano costruito la città sull'isola di Manhattan e le tenute dei loro patroni nella valle dell'Hudson. Ora stavano costruendo le loro capanne nella terra degli indiani Mohawk, l'attuale stato di New York. I tedeschi si erano insediati nei Jersey e nell'estremo ovest, oltre Filadelfia. Tedeschi e scozzesi si stavano arrampicando sulle montagne della Carolina. Gli svedesi erano nel Delaware, inglesi e francesi, olandesi e irlandesi si erano stabiliti nel Massachusetts, nei New Hampshire, Grants, nel Connecticut e in Virginia. A questi si mescolavano italiani, portoghesi, finlandesi, arabi, armeni, russi, greci e africani provenienti da una dozzina di popoli e culture africane molto diverse. Neri, marroni, gialli e bianchi, tutti questi popoli erano in parte liberi e in parte schiavi, e inoltre si sono mescolati con gli indiani d'America. Gli inglesi avevano fondato, o il governo britannico si era impossessato di queste 13 colonie. Le loro classi dirigenti erano quindi in gran parte britanniche. Queste colonie avevano allora la stessa età di questa repubblica, le colonie spagnole e francesi invece erano più antiche. La terra in America, come in ogni altro luogo, è sempre stata libera, cioè i re la possedevano e la davano ai loro sudditi. Desiderosi di costruire insediamenti nella Nuova Francia e nella Nuova Spagna, i re francesi e spagnoli diedero la terra in campi comuni a contadini selezionati e di buon carattere, sani principi morali e abitudini industriose. I governi diedero loro istruzioni accuratamente dettagliate per dissodare e recintare la terra, curare il recinto e il cancello, arare e piantare, coltivare, raccogliere e dividere i raccolti. Il governo assegnò un terreno per il villaggio da costruire come in Europa, una massa compatta di casette. Il governo protesse gli abitanti del villaggio con un distaccamento di soldati e un forte ben costruito. Per uno sfortunato errore commesso a Madrid, fu ordinato di costruire il forte di St. Louis in un sito che il fiume Missouri inondava ogni primavera con una profondità di almeno 3 metri. Anche i bambini di St. Louis sapevano che il ghiaccio battente avrebbe distrutto il forte, ma gli ordini erano precisi e dovevano essere rispettati. E il forte fu costruito. Il fiume lo distrusse e St. Louis rimase senza protezione quando gli inglesi attaccarono. Ma questi errori furono pochi. In ogni insediamento un comandante manteneva l'ordine e dispensava la giustizia, di solito con molta simpatia e saggezza umana. In genere si rivolgeva ai coloni come i miei figli, che erano obbedienti, ben curati e allegri. Non ebbero problemi con gli indiani, impararono i giochi di palla degli indiani e giocarono a palla, fecero correre i cavalli, fecero combattere i galli, banchettarono, ballarono e cantarono e giocarono molto d'azzardo. Si godevano la sicurezza, il tempo libero e il cibo a sufficienza nella natura selvaggia americana. Nel corso di un secolo, i re di Francia stabilirono piccoli e accoglienti insediamenti dall'Atlantico, lungo il San Lorenzo, il fiume San Lorenzo, intorno ai grandi laghi, giù per la valle del Mississippi fino a Mobile e New Orleans. Prima che Thomas Jefferson nascesse, c'era una piccola Versailles nell'Illinois. Signore e signori in sete, raso e gioielli andavano in portantina ai balli della dodicesima notte e indiani e allegri abitanti del villaggio, più grassi di qualsiasi altro in Europa, si affollavano fuori dalla sala da ballo per guardarne l'allegria. I re inglesi non sono mai stati così efficienti, hanno dato la terra ai commercianti. Alcuni gentiluomini che avevano abbastanza influenza politica da ottenere una concessione organizzavano una compagnia commerciale. I loro agenti raccoglievano uno o due carichi di coloni e stipulavano con loro un accordo che di solito veniva disatteso da entrambe le parti. Sbarcati in America, i coloni non erano mai sicuri di ricevere i rifornimenti promessi. Se i direttori della compagnia non li inviavano, i coloni morivano. Ma i direttori non potevano contare sui coloni, non lavoravano, non ricevevano le pellicce attese e soprattutto i servi, legati, se ne andavano sempre a vivere con gli indiani. Quando i rifornimenti promessi da Reliff non arrivarono, l'intera colonia scomparve e oggi si può parlare con uomini che dalle colline della Carolina alle montagne Osage dell'Oklahoma giurano che i loro antenati facevano parte della colonia perduta di Reliff e che si erano semplicemente spostati sulla terraferma e sulle montagne. Agli scandalizzati francesi, gli abitanti delle colonie inglesi sembravano bambini indisciplinati, selvaggi, maleducati, miserabili, sudditi di cattivi governanti. I loro villaggi non erano pianificati, le loro case erano sparse, non coltivavano la terra in comune. Anche se le città avevano pascoli comuni, i loro raccolti non erano equamente divisi e litigavano sempre tra loro e con gli indiani. I loro insediamenti si dividevano in fazioni, i ribelli li abbandonavano e creavano altri insediamenti. Dai grandi laghi canadesi al Golfo del Messico, nel 1750, bostoniano significava ciò che bolscevico significava in questo paese 20 anni fa. Tutti questi insediamenti non gestiti crebbero molto più rapidamente di quelli francesi e spagnoli. Si svilupparono così rapidamente che in 150 anni contarono più di 1 milione di persone e il tasso di crescita della popolazione era in rapido aumento. Poi salì al trono britannico un re coscienzioso, il primo da generazioni. Con scrupolosità germanica, Re Giorgio III era della casata tedesca di Hannover, si impegnò a fondo per stabilire un buon ordine sociale in Inghilterra e nelle colonie. Tutti i brillanti intellettuali francesi, che allora reclamavano a gran voce i diritti dell'uomo, ammiravano profondamente Giorgio III. Lodavano il suo governo come il migliore dei governi possibili e chiunque deve convenire che un'economia non potrebbe essere pianificata in modo più intelligente da nessuna autorità vivente. Consideriamo ad esempio la rapida crescita delle colonie. La curva statistica ha rivelato che se la popolazione americana avesse continuato ad aumentare a quel ritmo per 50 anni, non sarebbe rimasto un solo essere umano nelle isole britanniche. Londra sarebbe diventata una città deserta.